pensivo nuda fa. Se ancora voglia di scherzare, te prego non lo fa. Sto cancellando a poco che li carezze da morire e che il migliorna bella insieme a te. Te prego non lo fa. Stai diventando più cattivo, ma come già fa? Io che ti ho dato amore in cambio, mi hai regalato delusioni e decidevi quasi sempre tu. Ma non è facile di non te voglia più. Per me è difficile a pazzia come fai tu. E come hai fatto rinda niente a te scordare. Fa malo cuore. Tutto l'ora che ogni volta mi va a te sta. Quando vuoi tu sei troppo brava a recitare. Dimmi l'infanzia come fatta torna a casa, lasciamo stare. E non mi accarezza, mi hai fatto troppo male cuore, non voglio più parlare. Ma quando notte stavo sola e non sapevo che piangevo, perché non ce la facevo senza te. Ma non è facile di non te voglia più. Per me è difficile a pazzia come fai tu. E come hai fatto rinda niente a te scordare. Fa malo cuore. Tutto l'ora che ogni volta mi va a te sta. Quando vuoi tu sei troppo brava a recitare. Dimmi lasciamo stare.